Gennaio 1999. Fino a un istante prima era ancora inverno nell'Ohio. Le porte chiuse, i vetri alle finestre ricoperti di brina e c'erano stalattiti di ghiaccio a frangia ad ogni tetto. E silenzio, il meraviglioso, incredibile silenzio della neve. Improvvisamente... Mamma, senti, il razzo sta per partire. Non aprire la finestra, George, si gela. Mamma, mamma, guarda, la neve che stava cadendo. Vieni, vieni a vedere. Ebbene, non farmi perdere tempo, George. Piove. Piove a torrenti, come d'estate. Fa caldo. Mr. Lincoln, che succede? Ha visto? Fa caldo. Sembra di essere in estate. Mamma! Mamma! La neve per terra! Si scioglie! Guarda! Le stalattiti! Le mie belle stalattiti di ghiaccio! George, mamma, le mie stalattiti si sono tutte sciolte. Che caldo, Dio, che caldo. Levati il maglione, Robert, presto. Guardate là, lontano, al campo di lancio. Fuoco, c'è fuoco, il razzo che sputa fuoco. Sono gli ugelli di scarico, sta per partire. Mamma, ho paura, ho paura. Cosa succede? Che cosa succede? Sta per partire la prima spedizione su Marte. È estate! Guardate, è estate! È l'estate del razzo! L'estate del razzo! L'estate del razzo! L'estate del razzo! L'estate del razzo! Mamma, lasciami andare a vedere! Dove vuoi andare? Lo sai che al campo non ci si può avvicinare. Del resto è tardi, dovrebbero partire a minuti. Liberate la pista, liberate la pista. Tutto a posto, tutto a posto. 10, 9, 8. Ehi, Nathaniel, in bocca al lupo. In bocca al lupo anche a te, Bert. 6, 5. Mamma, guarda, il fuoco è più vivo. Freme tutta l'aria. 3, 2, 1, 0. Febbraio 1999. I coniugi K vivevano da 20 anni nella casa di cristallo presso il grande mare estinto sul pianeta Marte. Qui avevano vissuto i loro avi. Era una casa dalle colonne di cristallo che girava su se stessa da 10 secoli, seguendo il sole come un fiore. I coniugi K non erano vecchi. Avevano la pelle ambrata dei veri marziani, gli occhi gialli come monete, le voci dolci, armoniose. Yil! Che c'è? Mi hai chiamato? No. Mi era parso di sentirti gridare. Sì, m'ero assopita e ho fatto un sogno. Di pieno giorno. Non è cosa che ti capita di frequente. Ero in giardino poco fa. Ho avuto l'impressione... L'impressione che qualcosa stesse per accadere. Che cosa? Non lo so. Non accade mai nulla. E hai gridato per questo? No, te l'ho detto. Mi sono addormentata e ho fatto un sogno. Strano. Ma quanto strano il sogno. Sì? Ho sognato un uomo. Alto. Alto perlomeno 3 braccia e 2 palmi. Che assurdità. Un gigante malfatto, per giunta. Eppure, in un certo senso, aveva l'aria perfettamente normale e aveva... Lo so che a te la cosa sembrerà molto sciocca. Aveva Gli occhi azzurri. Gli occhi azzurri, per gli dèi. Che cosa sognerai la prossima volta? E aveva, immagino, i capelli neri. Come hai fatto ad indovinare? Ho pensato al colore meno probabile. Bene, erano proprio neri. E quell'uomo aveva la pelle molto bianca. Oh, era straordinariamente insolito. Indossava una strana uniforme ed era sceso dal cielo e mi parlava con molta dolcezza. Dal cielo? Che idiozia! Sì, in un oggetto metallico che scintillava al sole. Un lungo scafo d'argento dai fianchi rotondi, straniero e remoto. E una porta si è aperta nel fianco dell'oggetto d'argento e ne è sceso l'uomo alto. Se tu lavorassi con maggiore impegno, non avresti poi questi sogni insensati? È stato un bel sogno, in fondo. Non ho mai sospettato di avere tanta immaginazione. Capelli neri, occhi azzurri, pelle bianchissima. Che uomo strano. E nello stesso tempo incredibilmente bello. Aspirazione che si tramuta in sogno. Non sei gentile. Non l'ho voluto io il sogno. E non è stato come un sogno. Tutto è venuto in modo inatteso, diverso. L'uomo mi ha guardato e ha detto: sono venuto sulla mia nave dal terzo pianeta e mi chiamo Nathaniel York. Un nome stupido. Qualcosa, anzi, che non è affatto un nome. Sì, un nome molto stupido. E poi ha soggiunto: questo è il primo viaggio nello spazio cosmico. Siamo in due a bordo della nostra nave, io e Bert, il mio compagno. Altro nome stupido. Ed ha continuato: veniamo dalla Terra. Terra. Questa è la parola che ha detto, ma parlava in una lingua del tutto diversa dalla nostra. Eppure io la capivo, con la telepatia, suppongo. Yil, dove vai? Sei arrabbiato con me? Yil, ascolta. Ti sei mai domandato se non vivano delle persone sul terzo pianeta? Il terzo pianeta non è in grado di alimentare nessuna forma di vita sulla sua superficie. Troppo ossigeno. Ma non sarebbe una cosa meravigliosa? Ti prego, Illa, sai quanto detesti queste fisime sentimentali. Riprendiamo la nostra consueta attività. Hai sentito questa canzone? L'hai inventata tu? No, sì, non lo so, a dir la verità. Non so nemmeno cosa vogliono dire le parole. Sono in un'altra lingua. Quale lingua? Non lo so. Deve essere stata qualche mia bislacca fantasia, una mia invenzione senza scopo. Per gli dèi, basta! Yil, ti prego! Ti prego, Yil, non essere puerile. Scusami. Non so cos'ho stasera. Non canterò più. Hai sognato ancora? Parlavi talmente ad alta voce che mi hai tenuto sveglio. Hai detto molte cose. Davvero? Che cosa hai sognato? La neve. Veniva anche questa volta dal cielo. E l'uomo alto è riuscito a parlarmi, a dirmi piccole cose scherzose. Ed è stato un sogno piacevole. L'uomo alto mi ha detto che sono bella. E mi ha baciata. Ah! Ma è soltanto un sogno! Ti stai comportando come un bambino. Mi è venuto in mente il resto del sogno. Insomma, dimmelo! Yil, sei d'un umore esecrabile! Non ti ho mai visto così! Tutto quello che è accaduto è che questo Nathaniel mi ha detto... Insomma, mi ha detto di volermi portar via con sé fino al suo pianeta. Una cosa davvero ridicola. Ridicola? Proprio così? Ma avresti dovuto sentirti mentre gli parlavi, lo lusingavi. Avresti dovuto sentirti. Yil. Quando sbarca quest'uomo? Dove scenderà con la sua nave maledetta? In questo tuo sogno la nave non scendeva per caso nella Valle Verde, eh? Dimmi, rispondi. Yil, mi fai male. E atterrava nel pomeriggio di oggi, non è vero? Ma sì! Ma è soltanto un sogno, lo sai. Bene. Fortuna che hai detto la verità. Ho sentito ogni tua parola. Hai parlato della valle e dell'ora. Yil, sei malato. Non è stato che un sogno. Certo, certo. È stato soltanto un sogno. Vai in città? No. Fa troppo caldo. E poi è già tardi. Ad ogni modo sarò di ritorno presto. Un momento, dove vai? A casa di Pao. Mi aspetta. Non la vedo da tanto tempo e poi non è lontana. Sta nella Valle Verde, non è vero? Sì, è una passeggiata breve. E poi avevo pensato... Oh, devi scusarmi. Devi proprio scusarmi, ma mi ero completamente dimenticato. Avevo invitato il dottor Nile quest'oggi. Ma Pao... Aspetterai. Dobbiamo intrattenere il dottor Nile. Illa, resterai qui, vero? Sì, resterò qui. Per tutto il giorno? Sì, per tutto il giorno. Dove vai? Me ne vado un poco a caccia. Posso essere certo che non ti muovi di qua, vero? Sì. E ricordati di dire al dottor Nile che tornerò tra poco. Sono andato soltanto a caccia. Cosa hai fatto là fuori? Nulla. Ma l'arma? Ti ho sentito usarla due volte. Oh, cacciavo. Nient'altro. È venuto poi il dottor Nile? No. Oh, che stupido. Ma era domani. Domani che doveva venire. Oh, che stupido. Illa, è pronto il pranzo? È lì. Tu non mangi? Che hai? Non lo so. Non ho fame. Sai, mi sono sforzata di ricordare. Ricordare che cosa? Quella canzone. Quella canzone bella e delicata. L'ho dimenticata di nuovo. Eppure non voglio dimenticarla. È una cosa che vorrei ricordare sempre. Perché piangi? Non lo so, non so. Ma è più forte di me. Sono infinitamente triste. Piango e non so perché. Ma piango. Domani sarà passato tutto. Sì. Domani sarà passato tutto. Agosto 1999, Marte. Quattro uomini in uniforme, quattro terrestri, attendono ansiosi davanti ad una porta. Provate ancora, capitano. Forse non hanno sentito. Che c'è? Lei parla inglese, uno splendido inglese. Io parlo come parlo. Che cosa volete? Lei è marziana. La parola non le è certamente familiare, dato che è un'espressione in uso sulla Terra. Veniamo tutti dalla Terra. Io sono il capitano Williams. Siamo sbarcati meno di un'ora fa, noi della seconda spedizione. C'è stata una prima spedizione, ma non si è mai saputo che fine avesse fatto. Eccoci qua, ad ogni modo. E lei è la prima marziana che vediamo. Marziana. Quello che voglio dire è che lei vive sul quarto pianeta del Sole, giusto? Elementare. E noi veniamo dalla Terra, giusto ragazzi? Giusto, sino sì. Questo pianeta si chiama Tyr, se proprio volete sapere il suo nome. Tyr? Tyr, che nome magnifico! Ma mia buona donna, come mai lei parla un inglese tanto perfetto? Io non parlo, penso, telepatia, buongiorno. Bussate ancora, capitano. Forse non ha capito bene quella. Non mi sembra che lei abbia capito. Che cosa? Noi veniamo dalla Terra. Non ho tempo, ho da fare un monte di cose. Lei evidentemente vuol parlare a mio marito, il signor TTT. È di sopra, nel suo studio. Certo, proprio così. Ma ci permetta di vedere il signor TTT? È occupatissimo. Senta un po', questo non è il modo di accogliere gli ospiti, sa? Oh, sul mio pavimento appena lucidato, tutto questo fango. Via di qua, si pulisca le scarpe almeno. Non mi pare il momento per queste banalità. Noi dovremmo festeggiare il nostro incontro. Se i miei tortelli di cristallo sono caduti nel forno, le darò sulla testa una bastonata. E adesso aspetti qui. Vado a vedere se il signor TTT può riceverla. Di che si tratta? Gli dica che siamo venuti dalla Terra. Che è la prima volta che si verifica un fatto simile. Quale fatto? Non importa. Torno subito. Sigaretta? Vorrei sapere... Fa caldo, già. Eccola. Il signor TTT è terribilmente occupato. Ad ogni modo non è il signor TTT che lei deve vedere, ma il signor AAA. Porti questo biglietto alla fattoria vicina, lungo il canale azzurro. Il signor AAA le dirà tutto ciò che lei ha bisogno di sapere. Bene, bene, bene. Su, andiamo, ragazzi. Lei è il signor AAA? Sì. Ci manda il signor TTT. E perché l'ho fatto? Era occupatissimo. Oh, ma che guaio, Crede proprio il signor TTT che io... Non si tratta di questo, caro signore. Per me si tratta proprio di questo. TTT non ha nessuna considerazione nei miei riguardi. Ma noi veniamo dalla Terra, noi... I modi di TTT non sono modi di gentiluomo. Vorrete convenirne? A bordo di un razzo, di un'astronave, laggiù... Non è la prima volta che TTT si permette... Dalla Terra fino a qua, noi quattro soltanto, io e questi uomini, il mio equipaggio... Sì, questa volta è troppo. Gliela farò vedere io. Gli dirò quello che si merita. Terra, razzo, uomini, trasvolata, spazio interplanetario... Lo farò cadere morto ai miei piedi. Signor AAA, vorrei dirle cosa... Abbiamo percorso 100 milioni di miglia. Da dove dice di venire lei? Finalmente si comincia a concludere qualche cosa. Per 60 milioni di miglia abbiamo volato dalla Terra fino a qua. La distanza è al massimo di 50 milioni in questo periodo dell'anno. Ad ogni modo devo andarmene ora. Lei comunque prenda quel ridicolo biglietto. Vada al di là di quel cortile. Là in fondo, vede? Lo porti al signor I.I.I. e gli racconti tutto. È lui la persona che le occorre. Non TTT, che è un povero sciocco. E nemmeno io faccio al caso suo, perché il mio lavoro è un altro. Il suo lavoro! Si deve fare un certo particolare lavoro per dare il benvenuto a uomini che vengono dalla Terra. Tu dica sciocchezze. Tutti sanno come stanno le cose. Arrivederci. Troveremo pure qualcuno che ci dà ascolto. Forse ci converrebbe ripartire e ritornare dopo un po'. Forse dovremmo decollare e atterrare una seconda volta. Dar loro il tempo di organizzare una festa. Forse è un'idea. Comunque, prima tentiamo con il signor I.I.I. Signor I.I.I. Vorremmo un po' di attenzione. Veniamo dalla Terra a bordo di un razzo. Siamo in quattro, tre uomini d'equipaggio e il comandante. Siamo sfiniti, affamati e gradiremmo un posticino per poter dormire. Ameremmo vedere qualcuno che ci offrisse le chiavi della città o facesse un qualche gesto simbolico di questo genere. Qualcuno, insomma, che ci stringesse la mano, gridando evviva, o dicesse congratulazioni, amici. Ecco, ecco più o meno quello che vorremmo. Capisco, capisco. Il guaio è che non ho i moduli con me, a quanto pare. Ma dove diamine sono andati a finire i moduli? Eppure devono essere qui. Oh, eccoli qua, finalmente. Ecco, ecco, firmi queste carte. Dobbiamo fare tutta questa trafila burocratica. Lei dichiara di essere venuto dalla Terra, no? E allora non le resta che firmare. Anche i miei uomini devono firmare. Oh, loro firmare! Oh, che cosa stupenda! Loro! Oh, loro firmare! E che c'è da ridere? Firmare loro! Che cosa buffa! Bisognerà che la racconti al signor XXX! Fatto? Eccomi, Dia, sì, tutto bene. Tutto sembra in ordine. Anche l'accettazione dell'eutanasia in caso di decisione definitiva. Accettazione di che? Non faccia tante domande, su. Ho una cosa da darle, ecco, prenda questa chiave. Una chiave? Oh, ma è un grande onore. Non è la chiave della città, sciocco. È solo una delle chiavi della casa. Vada in fondo a quel corridoio. Apra la porta grande, entri e richiuda bene la porta a chiave. Potrà passare la notte là. Domani mattina le manderò il signor XXX. Beh, che c'è adesso? Che cosa è successo? Perché se ne sta lì come un cane bastonato? Su, parli! Non credo che lei possa... Voglio dire... Ecco, abbiamo lavorato sodo. Sa, è un volo molto lungo e difficile. E a lei forse non dovrebbe dispiacere di stringerci la mano e dirci bravi. Congratulazioni, congratulazioni. Devo andare ora. E si ricordi di usare quella chiave. Sì, sì. Andiamo, ragazzi. Capitano, guardate che sala immensa! E quanta gente! Si direbbe un ricevimento! Si sono voltati a guardarci! Ci guardano! Si accorgono di noi! Questi si accorgono di noi! Sono il signor U, U, U. E io sono il capitano Jonathan Williams di New York City, sulla Terra. Ehi, così va meglio! Questa è la vita! Evviva, ragazzi! Urrà! Evviva! Grazie, grazie, amici. Come fa bene tutto questo? Ci racconti di loro. Con piacere, con vero piacere. È un conforto rivedere un terrestre. Sono anch'io della Terra. Della Terra? Lei? Siamo in molti terrestri qui. Lei viene dalla Terra. Ma com'è possibile? Ed è venuto su un razzo? E tutti questi? Ma non se ne sa niente laggiù. Lei scusi, da quale paese proviene? Tiuriol. Sono venuto mediante lo spirito del mio corpo anni fa. Tiuriol? Non ho mai sentito nominare un paese simile. E che cosa sarebbe questo spirito del corpo? Anche la signorina RRR laggiù viene dalla Terra. E anche il signor VVV e il signor QQQ e il signor VVV provengono da Giove e da Saturno. Giove, Saturno. Non capisco. Ma dove si trova questo Tiuriol? È vicino all'America. America? Che cos'è questa America? Ma dice di venire dalla Terra e non conosce l'America. La Terra è un pianeta di mari. Soltanto di mari. Non c'è un sol palmo di terra ferma. Sono della Terra io e lo so bene. Scusi un momento, scusi un momento. Lei ha tutte le caratteristiche del marziano normale. Occhi gialli, pelle d'ambra scura. Io sono di Ori, sulla Terra, una civiltà fiorita dall'argento. Ragazzi, vi siete accorti dove ci troviamo? Dove, signor comandante? Non a una festa, non a un banchetto di festeggiamento e di onoranze. Non c'è nessuna festa sorpresa in corso. Guardate i loro occhi, ascoltate le loro parole. Ora capisco perché ci davano biglietti, ci passavano dall'uno all'altro di loro fino al signor II. Qui noi siamo... Dove siamo, comandante? In un manicomio. Manicomio? Noi, comandante, scappiamo e datemi la chiave presto! Non si aprirà. Non si apre! Non si apre! Siamo in trappola! Siamo in trappola, comandante! Mi lascia perdere. Domani. Domani verrà il signor XXX e spiegheremo l'equivoco. Ma quelli sono tutti pazzi! Paranoici. Tutti paranoici. Quali accoglienze ci hanno fatto? Tutte quelle urla, quei gridi, quei canti. Belle, vero? Domani il signor XXX ci libererà. Lei dimostrerà che non siamo pazzi. Speriamo. Non sembra molto sicuro, signor capitano. Non lo sono, infatti. Guarda in quell'angolo. Mio Dio! Che cosa esce dalla bocca di quell'uomo? Una fiamma azzurra! Prende forma di donna! Svolazza! E quella donna? Capitano, guardi! Si sta tramutando in una colonna di cristallo! Maghi, streghe, negromanti! Magia! Pura magia! No, soltanto allucinazioni. Trasferiscono la loro pazzia in noi. Cosicché noi pure... vediamo le loro allucinazioni. Telepatia. Autosuggestione e telepatia. Ed è questo che la preoccupa, comandante? Se delle allucinazioni possono sembrare così reali, non c'è da stupirsi che ci abbiano creduto dei paranoici. Che possano credere che noi creiamo la nostra astronave con la fantasia. E che possiamo fare? Sperare nel colloquio con il signor XXX. Signor XXX, mi ascolti. La prego, mi ascolti. Lei ci crede pazzi? Non lo siamo, le giuro che non lo siamo. Mi lasci parlare e spiegare. Si convincerà che noi non siamo dei pazzi. Non credo affatto che siate tutti quanti pazzi, no? Soltanto lei, caro signore. Gli altri non sono che allucinazioni secondarie. Per questo il signor I ha riso quando... Sì, sì, sì, il signor I mi ha riferito questo particolare. Molto comico. Dunque, dove ero rimasto? Ah, sì. Vengono da me, giovanotto, donne con serpenti che escono loro dalle orecchie. Quando le curi, i serpenti scompaiono. Avanti la cura. Sono certo che lei scoprirà che siamo tutti sani di mente. La sua quiescenza, signore, mi facilita il compito, anche se in un certo qual modo mi imbarazza. Perché lei capirà bene, allo stadio in cui è la sua malattia, l'unica cura efficace è l'eutanasia. Ehi, dico! Non le sembra che abbiamo sopportato abbastanza? Su, ci ausculti, ci dia un colpetto sulle ginocchia, ci sottoponga delle prove, ci faccia delle domande prima di dire che siamo pazzi. Lei è libero di parlare, ma l'avverto che più i suoi particolari saranno precisi, calibrati, numerosi, più giudicherò il suo caso disperato. Ma l'astronave! Le mostreremo l'astronave! Mi piacerebbe vederla. Può manifestarla in questa stanza? Oh, ma certo, certo! È in quella sua rubrica la lettera R. R come razzo. No, non c'è, non la vedo. È sicuro? Qui non c'è proprio. Si capisce che non c'è, pezzo di somaro, che non è altro. Stavo scherzando. Può scherzare un pazzo? Lei, amico, rivela una strana forma del senso dell'umorismo. Su, mi conduca a vedere questo benedetto razzo. Desidero proprio vederlo. La situazione più idiota, più esasperante! Per due soldi tornerei sulla Terra a dire a tutti di non occuparsi più di Marte! Che manica di sospettosi cialtroni questi marziani! Direi che gran parte della loro popolazione sia pazza, comandante! Questa sarebbe la causa principale della loro diffidenza! Già, nevrosi collettiva interspaziale. Comunque è esasperante lo stesso! Comandante! Il signor XXX sta uscendo dall'astronave! Allora? Allora? Dico, ci crede adesso? Questo è il più incredibile esempio di allucinazione dei sensi e di suggestione ipnotica in cui mi sia mai imbattuto. Ho esaminato tutto il vostro razzo, come lei lo chiama. Ne sento il suono metallico, fantasia uditiva. Ne sento l'odore, allucinazione olfattiva, indotta da telepatia dei sensi. Ne sento persino il sapore, fantasia labiale. Posso farle le mie congratulazioni? Lei è un genio paranoico, la sua follia è perfetta fino al sublime. La mia follia. Ne parlerò all'Accademia Marziana il mese prossimo. Ma si guardi. È persino riuscito a trasformare il giallo degli occhi in azzurro, metamorfosi biologica da squilibrio psichico. E i suoi tre amici? Che cosa fa? Perché quella pistola? Che intende fare? Povero diavolo eccezionale. Mio povero grand'uomo sarà più felice morto. Non vuole dire le sue ultime volontà? Fermo, per amor di Dio, non spari! Capitano! Comandante! La sua tristezza la libererò di questa pena che lo ha spinta ad immaginare questo razzo, questi tre uomini. Sarà di particolare edificazione per me veder sparire il razzo e i suoi amici appena l'avrò ucciso. Beh, io vengo dalla Terra! Mi chiamo Jonathan Williams e questi uomini... Ma come? Continuate ad esistere? Superbo. Allucinazione con persistenza oronotropica. No, noi no! Non sparate! Illusione auditiva, nonostante la morte del paziente meraviglioso. La paura vi farà scomparire. No! Ascoltateci! Dovete ascoltarci! persistono. Persistono. Allucinazioni. Gusto, vista, fiuto, udito, tatto. Andatevene. Sparite. Sparisci! Razza, sparisci! Sparisci! Contaminato. Contaminato, trasportato ogni cosa dentro di me. Telepatia, ipnosi. Ora sono pazzo, sono contaminato. Allucinazioni in tutti i sensi. Non c'è che una cura. Non c'è che un modo di fare sparire, dissolvere tutte queste immagini. Il razzo non scomparve. Aprile 2000. La nave calava dagli spazi cosmici, veniva dalle stelle, dalle nere lontananze dove la velocità è vertigine, veniva dai silenti golfi dello spazio. Ora decelerava con matematica precisione nelle regioni superiori dell'atmosfera marziana. I 16 superstiti dell'equipaggio, con le facce premute contro gli spessi cristalli degli oblò, guardavano Marte ondeggiare ampio ai loro piedi. Marte! Il caro vecchio Marte! Bene, coraggio amici, ci siamo! Preparatevi all'urto! Il razzo calò su un prato ricoperto di molle erba dove si ergeva un cerbiatto di ferro. Più oltre, in pieno sole, un'alta casa rossiccia di stile vittoriano. Sulla veranda, un vecchio divano ad altalena si dondolava dolcemente sotto la spinta di una lieve brezza. Attorno al razzo, in quattro direzioni, si stendeva la cittadina, addormentata nella primavera marziana. Ehi, ragazzi! Mi sembra di sognare! Che mi venga un accidente, ecco! È impossibile! Semplicemente assurdo! Gran Dio! Gran Dio! Comandante! Eh? Comandante! Sì, sì, dica! Ho il rapporto chimico sull'atmosfera, è molto rarefatta, ma l'ossigeno è sufficiente, aria ottima nell'insieme. Allora usciamo! Un momento, che ne sappiamo noi di tutto ciò? Sappiamo che è un paese come ce n'è tanti sulla Terra, con aria rarefatta ma abbastanza ossigenata, comandante. Un paesino come ce n'è tanti sulla Terra? È questo l'incredibile! Incredibile, assurdo! Non può essere! Eppure è! Lei, Easton, lei che è archeologo, ritiene che le civiltà di due pianeti possano progredire di pari passo, con lo stesso ritmo ed evolversi lungo le stesse linee? Non avrei mai creduto una cosa simile, comandante. Ma guardi, guardi là, i gerani. Una pianta specifica e per di più della particolare varietà conosciuta sulla Terra una cinquantina d'anni fa. E poi osservi finestre con vetri piombati, cupole, divani a dondolo da veranda, un pianoforte. Ascolti, la prego, a questo audiometro. Ma è stato il comandante Williams, naturalmente. Williams e il suo equipaggio di tre uomini. O Nathaniel York, il suo secondo. Con loro tutto si spiega. Non si spiega niente del tutto. Da quanto è possibile immaginare, la spedizione York perì nell'esplosione del razzo il giorno che arrivò su Marte. Per quello che riguarda Williams e gli altri, il loro razzo esplose il secondo giorno del loro arrivo. Almeno le pulsazioni dei loro apparecchi radiotrasmettitori cessarono allora. Se fossero sopravvissuti, avrebbero cercato in tutti i modi di mettersi in contatto con la Terra. Ammesso pure, ma è assurdo, che siano sopravvissuti, come avrebbero potuto in soli 2 anni al massimo costruire, invecchiare una cittadina in così breve tempo? Ma guardi, guardi, le case, gli alberi, le strade, hanno tutta l'aria d'essere là da almeno 100 anni. E poi York e Williams sono scesi sull'altro emisfero di Marte. No, non c'entrano né York né Williams, è tutt'altro. E non mi piace. Non intendo scendere dal razzo finché non so a che cosa ci troviamo davanti. Ma accidenti, io voglio scendere e visitare questo paese, col suo permesso naturalmente, comandante. Potrebbero esistere analoghi processi mentali, un parallelismo evolutivo d'incivilimento di tutti i pianeti del sistema solare. Forse siamo sulle soglie della più grande scoperta psicologica e metafisica del secolo. Voglio stare a vedere un po' prima. È certo che l'esistenza di questa cittadina su Marte è un fenomeno che non può verificarsi senza l'esistenza di Dio. Provo una tale emozione che non so se scoppiare in lacrime o mettermi a ridere come un bambino. Non faccia né l'uno né l'altro, allora, finché non avremo saputo chi o che cosa abbiamo contro. Marconista, stabilisci contatto con la Terra. Comunica che siamo scesi su Marte. Manderemo un rapporto domani. Inston, chiama Lustin. Andremo noi 3 a dare un'occhiata al paese. Gli altri restino a bordo. Qualunque cosa dovesse accadere, loro se la squaglieranno. Potranno così avvertire i prossimi razzi. Quello di Wilder, mi pare, che dovrebbe decollare a Natale. D'accordo, comandante. Lustin, vieni. Si scende col capitano. Se i lanci dei razzi fossero cominciati prima della Grande Guerra. No! Perché no, comandante? Era un mondo diverso quello del 1905. Era molto più facile mantenere il segreto. Guardi, non c'è niente che sia posteriore al 1930. O anche meno, forse. Zitto! Qualcuno. Qualcuno ci guarda dietro le tendine di pizza di quella finestra. Una donna. Sui 40 anni. È identica a una terrestre. Che le dicevo, capitano? È vestita alla moda del 1909. Si è allontanata dalla finestra. Attento, apri la porta. Han bisogno di qualche cosa. Ma voglia perdonarci, ma noi vorremmo sapere, o meglio, lei non potrebbe favorirci. Se si tratta di qualche cosa che loro vogliono vendere... No, la prego. Come si chiama questo paese? Non vorrà dirmi di trovarsi in un paese e non sapere come si chiama. Ma siamo forestieri qui e vorremmo sapere come questa cittadina sia sorta qui e come abbia fatto lei, signora, a trovarci. Tutti sanno che la nostra cittadina fu costruita nel 1868. È forse uno scherzo il loro? No. O sono addetti al censimento? No, signora, Noi veniamo dalla Terra. Dalla Terra? Dalla campagna, volete dire? Siete agricoltori? No, vogliamo dire che veniamo dal terzo pianeta del Sole, che noi chiamiamo Terra, a bordo di un'astronave, e siamo atterrati sul vostro pianeta, che noi chiamiamo Marte. Qui siamo a Green Bluff, Illinois, sul continente americano, fra gli oceani Pacifico e Atlantico. In un globo detto mondo e talvolta terra. Ma... Ora se ne vadano. Buongiorno. Ehi, dico io, ma che mi venga un accidente. Capitano, e se avessimo sbagliato rotta? Se fossimo finiti ancora sulla terra? Ma no, è impossibile. Ce ne saremmo accorti. E poi oggi non esistono più paesini come questo, neppure nell'Illinois. Ma... E se per un incidente di natura spaziale o temporale ci fossimo smarriti nelle dimensioni del continuo, ritornando sulla Terra di 40, 50 anni fa? Ehi, guardate, la signora è alla finestra, ci guarda. Scusi, signora, in che anno siamo? Nel 1926, oh bella. Avete sentito? Siamo tornati indietro nel tempo. Questa è la Terra. No. No, no, no, no. Non è possibile. Io ho paura. Non ho mai avuto paura in vita mia, ma questa cosa, questa situazione. Ragazzi, cerchiamo di essere logici. Instone, se avesse ragione lei, la signora, supponiamo che l'astronautica fosse stata inventata anni fa, i primi del Novecento, che molti terrestri fossero venuti su Marte. Presi dalla nostalgia, hanno costruito una cittadina simile a quella lasciata sulla Terra. Poi, per una nevrosi collettiva, si siano fermati nel tempo, si siano convinti di vivere ancora sulla Terra, l'anno della loro partenza. Tempo e spazio abolito. Ipnosi collettiva. È così, comandante? Esattamente. Loro e i loro discendenti. Tutti. Tutti fermi nello spazio e nel tempo. Bene. Forse siamo giunti a qualcosa di simile a una conclusione. Bene, bene. A quanto pare finiremo per diventare popolarissimi qui. Ne è proprio certo. Può darsi che non li rallegri troppo vederci. Forse vorranno cacciarci o addirittura ammazzarci. Abbiamo armi superiori. Su, bussiamo a questa villetta ora. Andiamo. Comandante! Oh, comandante! Quello che vedo! Ma dove corre? È impazzito! Inseguiamolo presto! Nonno! Nonna! David! Oh, David! Quanti anni sono passati! Come sei cresciuto, ragazzo mio! Che giovanottone ti sei fatto! Che uomo! Oh, nonno! Nonna! Come vi trovo bene! Come siete belli! Entra, David! Vieni dentro, figliuolo. C'è il tè in ghiaccio che ti aspetta. Tutto il tè in ghiaccio che vuoi. Ho degli amici con me. Con piacere. Entrino, entrino. I tuoi amici sono nostri amici. Squisito il tuo tè, nonna. Come sempre. Da quanto tempo siete qui, nonna? Fin dal giorno che morimmo. Fin dal giorno? Oh sì, sono morti da 30 anni. Ma come tu? Tu te ne stai lì seduto come se niente fosse. Zitto, zitto. Chi siamo noi per voler scandagliare quanto accade? Siamo qui. Ci è stata offerta una seconda occasione, si vede. Tocchi? Tocchi il mio polso, comandante. Non è solido? Di carne ed ossa? E allora, perché voler sapere il perché, il per come? Ma, vede, noi non ci aspettavamo di trovare una cosa simile su Marte. E invece l'avete trovata. Oso dire che su ogni pianeta ci sono innumerevoli cose che mostrano le infinite vie del Signore. È forse il paradiso questo? Oh no, che sciocchezza! È un mondo dove ci è stata offerta una seconda occasione di vivere. Nessuno ci ha spiegato perché. È vero che nemmeno ci è stato detto perché fossimo sulla Terra. Chi ci dice che non ce ne sia stata un'altra prima di quella? Bene, bene, noi dobbiamo andare ora. Grazie per il tè. Tornerete, vero? Vi aspettiamo. A cena, naturalmente. Sì, sì, lo spero. Ma ci sono tante cose da fare. I miei uomini aspettano il mio ritorno al razzo per... Che succede, comandante? Ora lo sapremo. Guardate, i nostri sono scesi tutti dal razzo. Una folla li circonda, parlano, gridano, si abbracciano. Ma guardate... Certi si sono messi a ballare. Fermatevi! Fermatevi! L'astronave abbandonata. Hanno abbandonato l'astronave, ecco quello che hanno fatto. Ma li spellerò vivi, per Dio. Gli ordini erano chiari. Comandante, non sia troppo severo con loro. Quelli erano tutti parenti, persone care. Pensi quello che devono aver provato. Dovevano stare agli ordini, per il diavolo. Io non mi sarei mosso dal mio posto. Io agli ordini... John, vecchia carogna! Edward, sei tu? Si capisce che sono io. Chi credi che sia? Ed. John, delinquente. Proprio tu. Su, vieni, la mamma ci aspetta. E anche papà. La mamma. Papà. Ma sono vivi. Ma dove? Nella nostra vecchia casa di Hocknall Avenue. Ci vada, comandante. Sono tutti tornati a casa loro, persino Samuel. E anch'io ora torno dai miei vecchietti. Se ha bisogno di me, sa dove trovarmi. Sì, d'accordo, Lastin, d'accordo. Ci vediamo più tardi, dunque. Eccolo là, la casa. Vediamo chi ci arriva primo. Fu un lungo pomeriggio delizioso. Finirono tardi di mangiare. Poi passarono in salotto, dove lui raccontò tutto di sé e dell'astronave. Loro sorridevano annuendo. Poi calò la sera. La madre mise un rullo sulla pianola e volle ballare con John. Sei stanco, figliolo. La tua vecchia camera da letto ti aspetta. Ma io devo assicurarmi che i miei uomini siano tornati a bordo. Perché? Perché, ma... non lo so. Per nessun particolare motivo, direi. No, nessun motivo. Sono tutti a tavola o si sono già coricati. Una buona notte di riposo non potrà far loro che bene. Buonanotte, figliolo. È così bello averti di nuovo a casa. Sì, è bello essere a casa. Vieni, dormiamo ancora assieme, nei nostri lettini gemelli. Ti va, vecchio pirata? Sono così stanco, tutte queste emozioni. Sono inzuppato di commozioni fino al midollo delle ossa. C'è la luna. Vuoi che apra la finestra? E questo dunque è Marte. È Marte. Buonanotte, Ed. Buonanotte, John. Ah, che giornata. Non riesco a dormire. Sono sfinito, ho sonno, ma non posso dormire. Troppe emozioni, troppi pensieri, terra, Marte. Che cosa meravigliosa, strana. Ma i marziani dove sono finiti? Nessuno ne parla qui. I marziani. È assurdo, eppure sarebbe una teoria affascinante che fossero ancora vivi, che ci aspettassero. Supponiamo che su Marte vivano ancora i marziani e vogliano distruggerci senza colpo ferire. Supponiamo, così, per gusto di ipotesi, che possano usare armi che noi non conosciamo. La telepatia, per esempio, l'ipnosi, la memoria, l'immaginazione. Se tutto quello che abbiamo visto, vissuto, non fosse reale. Sarebbe interessante immaginare. Ma... e le due persone che dormono nella stanza accanto alla mia? Se non fossero affatto mio padre e mia madre, ma due marziani estremamente intelligenti, capaci per tutto il tempo di tenermi in questa ipnosi trasognata. E la banda. La banda di ottoni oggi. Ah, che piano meraviglioso, straordinario sarebbe stato questo dei marziani. Prima suggestione, Lasting, poi tutti gli uomini di bordo, poi Samu, me, ed ora siamo tutti qui stanotte, sparsi in case diverse, senza armi per difenderci. Chissà che cosa proverei se fosse vero tutto questo. Sì, il piano dei marziani, l'ipnosi e tutto quanto. Se mi accorgessi che, piano piano, durante la notte, mio fratello, nel letto accanto al mio, comincia a mutare forma, si scioglie, sostanza fluida e plastica, per diventare una tremenda creatura, un marziano. Sarebbe semplicissimo per lui girarsi nel letto e piantarmi un coltello nella schiena e in tutte le altre case lungo il viale, padri, fratelli bruscamente dissolti per diventare un'altra cosa, dei nemici e i coltelli. La notte, i marziani, no, basta, non resisto, ho paura, sono tutto gelato. Devo alzarmi. Devo andare piano. Piano che nessuno mi senta, ecco. Ecco così. Dove vai? Che cosa? Ti domando, dove vorresti andare? A bere un po' d'acqua. Ma tu non hai sete? Sì, ho molta sete. No, non è vero! No! Ma chi sei? Chi sei? Coltello, no! La porta! La porta chiusa! Chiusa! La mattina dopo, da ogni casa lungo il viale uscivano piccole processioni. Al cimitero erano state scavate delle fosse fresche e lapidi nuove erano già sulle tombe. Padri, madri, nonni, fratelli piangevano disperati, mentre i loro volti si trasformavano come se fossero di cera. Si trasformavano da volti familiari che erano in qualche altra cosa.